Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Palla buona per Higuain, ci sarebbe ancora Dani Alves, infatti viene servito uno contro uno con Click. Va via Dani Alves, prova col tacco, dentro, per il piazzato, per l'1-0 Juve, per il 30° in stagione del Pipita, per un gol pesantissimo e bellissimo. Possibilità per la Juve con tre uomini, Dani Alves, già Higuain in mezzo, palla per lui, Higuain! Higuain! 2-0 Juve! La nona doppietta stagionale! Felice per una partita importante. Una semifinale, credo che era importante vincere, quindi abbiamo portato a casa una vittoria importantissima. Ora abbiamo campionato e speriamo vincere a Torino e speriamo chiudere quanto prima il campionato. C'è da fare complimenti a tutti, a quelli che sono entrati. I ragazzi stanno facendo una stagione importante, possono farla diventare straordinaria. E per far questo ci vuole grande entusiasmo, grande serenità. Beh ragazzi, dopo la serata di ieri, oggi vi abbiamo messo in piedi una puntata che spero sia degna della gara della Juventus con Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Peronati, regia, Edoardo Lavezzari in redazione e della telecronaca di Pierluigi Pardo, perché quella... Il senso di Gonzalo per il gol è stato qualcosa che avrà mandato in sollucero gli juventini che già saltavano sul divano. Ciao Pardo! Ciao, ma è vero, perché è esattamente quello. Una capacità incredibile di cogliere l'attimo che hanno tanti grandi attaccanti. Non ho tantissima voce, perché ieri sera c'era un clima a Monte Carlo un po' di quelli che tradiscono, di quelli che sì. Quella rietta, ho fatto il primo tempo in schiacchetta per farmi vedere ancora il fisico. C'era ancora un pischello e poi sono andato a fine primo tempo a implorare una pasticchetta per la voce che mi hanno mandato da sotto, quindi. Che ti hanno passato tutto sotto banco bene. E Serena era coperto invece. Sì, salutiamo al dito. Aldone che è un uomo d'esperienza, si era portato la maglietta pesante. Allora, 800 24 00 24, già vi dico che parleremo ovviamente di quanto abbiamo visto ieri sera e guarderemo dal buco della serratura quanto succederà. Avremo un grande ospite dopo la borsa, cioè Arrigo Sacchi, e credo che non ci sia persona migliore per commentare queste due partite che abbiamo visto di Juventus e di Real Madrid. Parleremo nella seconda parte dopo il GR di Totti, che è stato defenestrato dal campo da Monchi appena arrivato. Ma Totti non lo so, adesso è scritto sul contratto, ultimo anno fa il dirigente, e Capello che dice hanno dovuto chiamare uno dall'estero che avesse il coraggio di dire questo. Parleremo dell'inchiesta Infrot, insomma di tutto quanto, ma cominciamo dalla Juventus con Pardo e ovviamente con Maurizio Corsetti, che oggi non poteva mancare dopo che anche Glick si è arreso. Sentiamo la voce anche degli sconfitti. Noi sicuramente andremo a Torino a fare la nostra partita, però è anche normale, certo, che quando sei in semifinale pensi di raggiungere il massimo, quindi andare in finale, però io e penso tutta la squadra siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto già quest'anno, perché siamo partiti dal terzo turno preliminare, quindi da lontano, e abbiamo superato turni importanti. Per me anche sono orgoglioso, perché è mia prima stagione in Champions League, quindi arrivare subito in semifinale penso che è una cosa per me personalmente bella, e spero di vincere il campionato, perché ripeto, questo è stato sempre il nostro primo e vero obiettivo. Certo, il tifo non ha limiti. C'è un mio omonimo che scrive dalla mia città: come previsto, il gioco della Juve, più wrestling che calcio, ha avuto la meglio con la complicità di un arbitro comprato, una vera schifezza. È proprio vero. Vabbè, che al tifo non c'è alcun limite. Poi parleremo anche di altre cose, di tweet, messaggi Facebook e di un anniversario importante. Macchiato, manco a dirlo. Maurizio Crosetti, ciao. Eccomi qua, ciao. Bisogna fare l'etilometro a questo qui che ha scritto sta roba. Ah, mio, ma altro che l'etilometro, bisogna altro fargli. Che, altro che qualche prelievo. Sì. Prelievo, magari, chiamare carabinieri, prego. Oh. Cross, certo. La più bella, l'ho detto prima, è Tappardo. Il senso di Gonzalo per il gol. Tu oggi ne hai scritto di questa partita di Higuain che si è tolto il gorillone dalla spalla. Vabbè, due gol in Champions League, le partite importanti non la mette mai, pam pam. Però c'è anche da dire che Allegri, che ha indovinato tutto, more solito, a Dani Alves, che evidentemente l'hanno messo sulla macchina del tempo di quel famoso film, perché io non lo vedevo giocare così da quattro anni. Pjanic, che ha fatto il mediano, ha recuperato 1000 palloni. Posso andare avanti con Marchisio e arrivare fino a Buffon, che è monumento nazionale, come ha sottolineato diverse volte Pardo in telecronaca. Sì, è così, hanno veramente tutto. Cioè, adesso, se tu dovessi dire che cos'è che non ha la Juventus, forse una cosa sola: l'avversario domani. Perché lo sport è così, cioè se la finale fosse domani mattina, per carità, c'è Cristiano Ronaldo di là, in un mese possono cambiare tante cose. Non credo la consapevolezza di sé, la presenza nelle partite, l'equilibrio, la forza d'urto e la forza nel reggere gli urti, perché anche questi discorsi, alla fine sulla miglior difesa, sì, però, e poi invece è miglior tutto, perché è un attacco formidabile. Messi non fa un gol contro Dybala e ci pensa Dybala, poi Dybala fa i passaggi e contro il Monaco ci pensa Higuain. Adesso ci devono pensare tutti e due insieme, ovviamente Cristiano Ronaldo, non basterà uno soltanto di questi due, però certo. Insomma, da qualunque parte la guardi, adesso la Juve vedi un monoblocco, cioè una cosa che non ha oggettivamente screpolature, non ha fessure, certo, nelle quali eventualmente guarda dopo Maurizio, ti faccio una considerazione. Mentre ricordo che siamo in diretta anche video sul sito di Radio 24 e su Facebook, vi saluto con la manina come ogni giorno. Vi ricordo che dopo la borsa avremo Arrigo Sacchi ospite. Sono estremamente curioso di sapere che cosa dice, perché tra lui e Allegri non sono sempre state rose e fiori. Allora, non so quanto tu sia appassionato di basket, però la difesa della Juventus, 621 minuti senza prendere gol, ne ha presi due soltanto agli albori di questa Champions League. Guardare in faccia Falcao, che pure non è l'ultimo dei ragazzini, guardare in faccia Papé, che pure è un nuovo fenomeno emergente. Ebbene, davanti a quella difesa mi sembra di rivedere le facce che c'erano negli avversari quando la storica Milano del basket faceva la difesa 1-3-1. Non so se ti ricordi. Sì, la difesa 1-3-1. Ti intimorisce solo ad affrontarla. La ricordo sì, ma soprattutto tu parli di facce. E io le ho guardate molto ieri sera, perché ci sono questi schermi giganteschi in uno stadio piccolo come quello di Monte Carlo, e sembrano ancora più grandi, e poi hanno ficcato dei televisoroni in tribuna, sì, anche questi giganteschi, cioè alla fine quasi quasi guardavi gli schermi e non il campo. Però li ho guardati molto, i giocatori della Juve, nell'inquadratura prima, durante la musichetta, insomma, eccetera eccetera, e quelle facce lì dicono quasi tutto, anche se poi la spiegazione più complessa non è soltanto morale, non è solo estetica, non è solo emotiva, non è solo psicologica, non è solo tecnica, non è solo tattica, ma è tutte queste cose insieme. Ma alla fine, quando tu guardi le facce delle persone, non solo in Champions League, nella vita, insomma, guardi le facce delle persone, qualcosa capisci, se non tutto. D'altra parte, il famoso ufficio facce l'aveva inventato un padre del nostro mestiere, come Beppe Viola. Ma ci fermiamo un istante per il traffico, poi ho voglia di chiacchierare ancora un po' con te, se lo permetti. Tutti convocati. Convocati. quello, e ogni volta devo dimostrare di valere questo livello, nonostante l'età, nonostante la carta d'identità. L'obiettivo è smettere di giocare e che tutti dicano peccato che abbia smesso. Ma quando ci sono le partite serie, Gigi non c'è bisogno di dirlo, è ancora il numero uno al mondo e lo dimostro. D'altra parte i giocatori di grande valore vengono fuori in queste serate dove le partite incominciano a diventare serie. Non ho idea perché alla fine non le ho riviste e per cui non posso giudicare con precisione. Io credo che l'importante sia farsi trovare pronti quando la squadra ne ha bisogno e finché si fa questo almeno mi reputo soddisfatto e sono felice. Questi ovviamente Allegri e Buffon, due grandissimi protagonisti della partita di ieri, ormai parlavamo di ufficio facce, gli attaccanti quasi si paralizzano davanti a Buffon. Non credo sarà il caso di Cristiano Ronaldo, non troverai Maurizio Corsetti mentre c'è Pierluigi Pardo collegato con noi, non troveremo mai nessun addetto ai lavori, allenatore, giocatore o ex tale che dirà che le gare di ritorno insomma avranno il giusto senso, no? Sia per il Real Madrid che per la Juventus, che faranno tutti convenevoli di rito, ma attenzione al ritorno al calcio strano eccetera, nessuno sarà d'accordo su questo. Noi che facciamo questo mestiere possiamo anche dirlo e spiare dal buco della serratura quella che sarà la finale di Champions League. Dai ragazzi, Pardo, vogliamo fargli scaramantici? Sì, no, ma che scaramantici, dai, sulla finale sappiamo qual è la finale, a meno di... Però bisogna avere ovviamente da parte di tutte e due le favorite grande rispetto per la partita di ritorno, perché sì, il calcio può essere strano, però insomma, oltretutto le due squadre che sono avanti sono le due squadre più forti, quindi... Certamente. Cioè, non è che devi rimontare un 3-0, fosse successo il contrario, e se il Real avesse dovuto rimontare 3 gol tra di Madrid, uno poteva pensare all'impresa tipo Barcellona col Paris Saint-Germain, o viceversa, no? Se la Juve avesse dovuto rimontare 2 gol al Monaco, ci poteva essere perfetta. Qua mi sembra che l'incertezza non ci sia, perché ci sono dei valori molto chiari e molto precisi. Anche se io scaramanticamente quasi mi auguro che su un risultato ormai acquisito Buffon becchi un gol a Torino con dal Monaco. Non so se siete d'accordo, ragazzi. No, è una finale già disegnata. Abbiamo molto tempo, forse persino troppo. Adesso ti parlo giornalisticamente. Sì, dovremmo riempirla di personaggi. Sì, sì. Ma non si fa la fatica, però va bene così. Questa mattina abbiamo prenotato i voli degli alberghi, tutto fatto. E quindi Juve Real Madrid come Juve Barcellona. Con segni diversi, con una favorita che non c'è più in assoluto, e con due squadre che tutto sommato non sono poi molto diverse tra loro. Molta bellezza, la finale, una delle finali che ci si aspettava e si desiderava anche come italiani, perché vuol dire tra l'altro essere due volte in finale negli ultimi 3 anni è una cosa grande, anche se l'altra la Juve l'ha persa. Questa volta però secondo me contro Cristiano Ronaldo a questo giro l'ufficio facce Juve sarà diverso che contro Messi a quell'altro giro. Non ha alcuna parentela questa finale con quella che abbiamo visto 2 anni fa, secondo me proprio zero parentele dal punto di vista soprattutto della Juventus. Piuttosto vi chiedo, dalla cabina di commento e dalla tribuna stampa, qual è stato il vostro primo pensiero quando avete letto la formazione e avete visto che non c'era Cuadrado ma c'era Barzagli e c'era Dani Alves insieme ad Alexandro? Qualche mese fa, non mi ricordo in quale partita, parlando con la seconda voce in telecronaca, avevo prospettato l'ipotesi in Dani Alves eventualmente anche esterno alto, perché secondo me questa formula ci stava e quindi non è che mi abbia sorpreso più di tanto. Devo dire però che ieri sera avevo onestamente considerato questa mossa una mossa difensiva, forse in qualche misura lo era anche di fronte alla rapidità del Monaco, di fatto però non lo è stata. È stata non soltanto una mossa fatta per adattare la squadra per renderla più chiusa non è stata una mossa fatta per esaltare il talento di Dani Alves. A questo punto, però sarei d'accordo con me, Pierluigi, non lo vedevamo su questi livelli da qualche anno, da qualche anno. Vi ricordate che all'inizio della stagione c'erano un po' di voci, sì, che non si fosse inserito, e pare che adesso sia tutto molto chiaro, le cose girano veramente alla grande, il giocatore ha un'esperienza internazionale incredibile, questa è una generazione che merita di portare a casa quel trofeo, penso ovviamente a Buffone, alla BBC, questo è veramente un gruppo di ragazzi che in qualche modo ricorda gli amici del Buitre, della Quinta, chiaramente attaccanti o i ragazzi del Manchester United di Ferguson, cioè sta diventando una generazione di giocatori ormai un po' avanti con l'età che hanno giocato insieme per tanti anni e che meritano questo tipo di sviluppo. Ma secondo me il fatto che in questa squadra ci siano dentro l'esperienza e diciamo la cazzimma per dirla alla De Laurentiis o alla Uriemma, gente come Manchester, gente come Dani Alves, gente come Higuain, questo è tanta roba, secondo me. Sì. Questa forza, ovviamente Chedira. Chedira non c'era, ma Marchisio ha giocato una partita, secondo me, eccellente. Mao, tu come l'hai letta? Cosa hai pensato? Primo pensiero che ti è venuto in mente? No, il primo pensiero ho detto, guarda, ha messo Barzagli terzino, invece dovevo dire, guarda, ha messo Dani Alves all'ala. E vabbè, questo, come ha detto Pierluigi, sembrava conservativa e invece era offensiva, con più una squadra meno quadrata e più quadrata, forse. E poi, visto che siamo al 4 di maggio e manca un mese meno un giorno, io completo il ragionamento sulla generazione che meriterebbe questa Coppa e io mi espongo, io dico che la Juventus vincerà questa Coppa perché è superiore alla Real Madrid, non di moltissimo, ma è più completa. È perché ha una fame che secondo me il Real ha un pochino smaltito con le coppe che ha vinto negli ultimi anni. Cioè la Juve sa come l'Italia a Berlino, come alle volte succede ai grandi atleti in snodi irripetibili delle loro vite, sa di essere arrivata al giorno. Cioè quel giorno sarà il giorno della Juve e la Juve vincerà la Champions League. Mamma mia, questa ovviamente va agli atti. Lorenzo il 4, no, registra, sentiamo, 4 di giugno dirai, avevi visto giusto. Certo, è agli atti, Crosetti, non ti preoccupare. Lorenzo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Due cosine veloci. Non ha fama la Juventus. La Juventus è una gran squadra. È una gran squadra e può combattere con chiunque. E se siamo in forma come siamo, io sono juventino, e se siamo in forma come siamo, non c'è né Ronaldo né Messi che tenga, guarda. Se quando sono in forma che viaggiano, non c'è né, sono uomini anche loro. Ecco, non allora E poi un'altra cosa, dica. Un'altra cosa su Buffon. A Buffon non gli serve il pallone d'oro, è consacrato in tutti i giornali del mondo. Lui è il number one. Ma sì, ma pallone d'oro, mica pallone d'oro, insomma, i valori in campo sono quelli. Pallone d'oro, eh? L'ha vinto oggi. E adesso ne parliamo. Poi per lui vale la famosa battuta, non è il pallone d'oro che manca a Buffon, è Buffon che manca il pallone d'oro. Sono cazzi d'oro. No, ma il pallone d'oro che è più debole senza Buffon. Sì. Ragazzi, io voglio fare un giochetto prima di passare a una cosa molto più seria. Trovatemi un difetto, una cosa in cui Allegri davvero non è bravo. Cioè, proprio non ce la fa, non ci arriva. Silenzio il mumble dei cartoni animati, un difetto grave di Allegri. No, un difetto da parte di Allegri può essere, ma francamente dirlo oggi fa ridere, può essere che magari un certo tipo di maniacalità che altri allenatori hanno, Allegri non ce l'ha sempre. Cioè, il difetto della Juve di quest'anno qual è stato? È stato aver perso a Firenze, è stato aver perso a essersi presa qualche pausa nella prima parte della stagione, a far vedere forse non è un difetto, è una forma, diciamo, di respirazione. Non ci siamo. No, ma figurati, almeno dici, non ci siamo. Sentiamo Crosetti se ha una risposta più efficace. E lui va sul barchino dopo un po'. Perché un grande fa bene, nel senso che Conte il barchino se lo mangia. Però vince meno, però non è un difetto nemmeno questo, secondo me. Grandi difetti non ne ha, è riuscito persino a sopportare tutti i sabati di Berlusconi a Milanello, sì, e le uova e i sassi sulla macchina quando è arrivata a Torino. Sento che anzi fa esonerare da Berardi, ecco. Se Berardi viene acquistato dal Real Madrid prima del 3 giugno il mio pronostico crolla. Non ha difetti grandi. Non ci avete preso né uno né l'altro, no. Il difetto è questo. It's important to win because we are near Cardiff. You saw the game last night. You still had only Monaco, or still a bit Real Madrid in your head? No, now I think only Monaco. What will be the most important thing in the second leg in Torino for your mentality of the players? 2-0, what was your best job to do in the second game in Torino? We need to play very well. We need to have the right mentality. Just one last sentence about Higuain. Tell him about his goal scoring ability as a goal machine. Direi che il difetto è su un inglese da 4-4. Così, vabbè, ma alla TV norvegese l'abbiamo trovato il difetto di... sembrava un po' Renzi, però vedrete che dove vedi alla voce the book is on the table, the book is on the table, the cat is under the table. Ragazzi, voglio farvi sentire una cosa. I campioni d'Italia Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Buongiorni Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loic, Maroso, Martelli, il nostro capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert, dirigenti e tecnici, Civaglieri, Egri Erbstein, Livsley, Agnisetta, Cortina, giornalisti, Casalbore, Cavaliero, Tosatti, equipaggio, Meroni, Dinca, Bianciardi, Pangrazzi, Buonaiuti. Questa è la voce di Kamil Glik quando era capitano del Torino. Oggi è il 68esimo anniversario di Superga, ovviamente imbrattato da alcune scritte indecorose. Non devi partire da quello, Carlo, scusa. Perché da quella io vorrei quasi fare un applauso, ma vorrei quasi ringraziare quei quattro investiti che hanno fatto quella roba lì. Sì. Perché quella roba lì, tante volte poi nella vita c'è bisogno di qualcuno che sia abbastanza coglione e ti faccia capire che certe cose vanno, certi puntini sulle i vanno messi, certi punti esclamativi vanno messi. Perché quello che è successo nelle ultime ore con quello che c'è oggi, cioè con la tecnologia, Marchisio prima con il suo tweet e poi Buffon. Voglio ricordare un passo di una lunga cosa che ha scritto su Facebook. Mi provoca ribrezzo e rabbia sentire torturare ancora oggi i nostri 39 angeli dell'AISEL. Non macchiamoci delle stesse colpe, siamo uomini, dobbiamo distinguerci. Se vogliamo seminare qualcosa di duraturo e costruttivo per l'umanità che arranca, non accontentiamoci di essere mediocri e vili solo per rifarci di uno sgarbo subito. Guarda, mi sono permesso di mandargli un messaggio e lui mi ha detto che l'ha scritto alle 5 di mattina in piena adrenalina questo messaggio, quindi lo immagino a Torino dopo il viaggio aereo. Io credo questo, che Marchisio ha fatto un bel tweet, ma ha uno scarto enorme, straordinario, per quello che è il livello medio di coraggio dei calciatori. Assolutamente. Perché Buffon non dice soltanto onore al grande Torino. No, dice un sacco di altre cose, vi invito ad andare a vedere ciò che ha scritto. Anche a costo magari di andare a solleticare, diciamo, la parte più ignorante del tifo juventino. Non c'è dubbio, Pier. Pier, ci sentiamo subito dopo la borsa con Arrigo Sacchi. Voglio sentire l'ultima da Crosetti invece su questo. Ma io, mentre parlavate, sono uscito sul balcone. Ho la fortuna di avere un balcone che dà sulla collina di Torino, non proprio su Superga, ma quasi. E come quasi tutti gli anni, me lo raccontava già la mia mamma, verso quest'ora il 4 di maggio arrivano le nuvole e anche oggi la collina è coperta da nuvole nere, sta cominciando a piovere. No, non c'entra forse niente, però è come se ci fosse una memoria anche nel tempo, non solo nei luoghi, nel tempo che passa, nel tempo atmosferico, nel cielo, che ricorda una certa cosa che non può andare mai via. Sono nuvole di memoria, non di tristezza, ed è un segno che rimane. Chi è a Torino e non solo, ogni anno oggi guarda in una certa direzione, vede quelle nuvole e pensa alle cose proprie, ai propri ricordi e anche alla bellezza della memoria, anche quando è dolorosa. Grazie Maurizio, ci sentiamo presto. Ciao. Allora, ciao. Ci torniamo per la borsa, subito dopo arriva Arrigo Sacchi, quindi state con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Allora, Pierluigi Pardo, dopo quanto hai detto ieri sera, il senso di Gonzalo per il gol, come ho detto prima, secondo me è stato un gol da telecronista. Io ti promuoverei centravanti. Arriva l'ospite, il grande ospite che abbiamo annunciato prima, uno cui fare 0-0 neanche con le parole è mai piaciuto. Arrigo Sacchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Lo promuoviamo centravanti, dunque. Centravanti dei telecronisti. Può giocare dappertutto, ma lo vedrei più come sfondamento. No, ma può contendere il posto a Higuain. Come stazza siamo lì. No, ma anche come qualità. Addirittura, anche come qualità. Ci sono gli avvocati di Higuain che stanno già bussando alla porta, però... Sì. Andiamo sul serio, Arrigo, le abbiamo viste tutte e due. Adesso saltiamo i convenevoli secondo cui c'è una gara di ritorno da giocare, il calcio è strano, può riservare delle sorprese, bisogna fare attenzione. Questi sono i convenevoli. Rimangono la Juventus e il Real Madrid. No, non sono convenevoli, no. La realtà. Uno può uscire di casa e purtroppo essere anche investito e quindi ma la Juventus è una squadra troppo, è tutto troppo serio, ma non troppo serio, deve essere così, un club molto serio con un suo stile, una sua storia e delle sue norme. Attenzione alla parola norme. Un allenatore molto bravo, pragmatico, a volte cinico addirittura, non ingeneroso, però bravissimo, un tattico straordinario e sta facendo un lavoro fantastico e anche lui è stato importante nelle norme. Un gruppo di giocatori, prima di tutto, che di grandi valori umani, di grandi valori professionali, dai grandi valori etici, con un'etica del collettivo, un'etica del lavoro, un esempio per il paese. Intelligenti la maggior parte di loro, anche fra parentesi. Tutto questo che cosa porta? Porta a far sì che questa società abbia dato delle linee, l'allenatore anche, e loro le eseguono mettendoci tutti i loro valori tecnici e di talento, perché qui ci sono dei grandi giocatori. Sì. Io non voglio elogiarmi, però è dall'inizio che dico che questa squadra è fortissima. Sì, questo è vero e ci sono le prove. E non solo, ho scritto e detto che questa squadra è la vera protagonista di questa Champions. Se sarà finale fra Juventus e Real Madrid, se sarà finale, benissimo, perché la Juventus ha l'opportunità non solo di vincere ma di entrare nella storia, battendo una grande, Sì. E anche vendicando un po' il passato. Insomma. Avversari importanti, tanto onore. Sì. Avversari importanti, tanto onore. Sì. Quindi. Io sono rimasto. La Juventus ha tutto per riuscire in questo. Perché? Perché è un club fra i più efficiente. Ecco, ma io in questo volevo togliermi una curiosità perché mi ronza nel cervello da quando l'ha detto, prima di passare la palla a Higuain Pardo, perché lei ha detto attenzione alla parola norme? Perché uno dei momenti chiave è stato quando nell'evento stavano succedendo cose non che minavano l'armonia di una squadra e la leadership di una squadra. Io dicevo sempre, le sovrapposizioni si fanno solo in campo, sì, non cambiando i valori, i valori istituzionali. Allora, per riuscire nel calcio, la cosa più importante è il club. Il club è più importante della squadra, come la squadra è più importante di ogni singolo. Io sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Beh, queste, guarda, ne abbiamo le prove, ne abbiamo, guarda, mi è piaciuto molto il riferimento alla io non sono un teorico, sono un pratico, sì, sì. E quindi dico per quello che ho provato, per quello che ho visto. Allora, in questa scala era successo che alcuni giocatori stavano mancando di rispetto all'allenatore, non so, faccio dei nomi: Lichtsteiner, Dybala, Mandzukic, lo stesso Higuain e alla fine Bonucci. La società, il club e Max e Allegri hanno preso una decisione durissima, difficilissima nel nostro paese, quello di la legge uguale per tutti, e hanno punito Bonucci prima della partita col Porto, che sembrava una partita difficile. Certo. Bonucci stesso, ci siamo trovati qualche giorno dopo, una settimana dopo, eravamo premiati entrambi, e io ho parlato con lui e lui mi ha detto quella scelta della società mi ha fatto capire tante cose, ho sbagliato, e ha fatto capire tante cose anche alla squadra. L'ordine era restituito. Sì. Non fa una piega. Quella è stata una chiave, un momento chiave della stagione. Quindi, oltre a questo, però, sono le idee, il lavoro, l'impegno, il gruppo, tutto quello, l'energia, sono tre componenti così unite, così nella chiarezza e nell'obiettivo. E quindi questo li rende moltiplica. Si ricordi questo, che quando c'è una motivazione, una pulsione così forte, sì, il corpo l'accompagna, sì, e supera i propri limiti fisici e anche intellettivi. Sì, è chiarissimo e interessantissimo. Pier, dicevi, ti è rimasto impresso il passaggio? È stata una chiave della stagione importantissima dal punto di vista appunto dell'ordine, della disciplina, delle regole. L'altro passaggio fondamentale è stato il cambio di modulo, e volevo chiedere al mister, ieri c'è stata questa mossa che sembrava all'inizio, forse in maniera un po' superficiale, l'avevamo interpretata come una mossa difensiva, cioè Dani Alves più avanzato, Cuadrado dalla panchina e Barzagli dietro. Però, vista la partita che ha fatto Dani Alves, è una soluzione in più a questo punto, cioè lui lì ci può giocare. Ascolta, finché ci sarà una motivazione così forte alla base, è supportata da un talento di altissimo livello, qualsiasi soluzione è vincente. Quando non ci sarà la prima, ci sarà la seconda, e se no la terza. Tutti i moduli saranno sbagliati. Certo. No, Arrigo, a me che colpisce invece, che colpisce tanto di questa Juventus, come mi colpiva tantissimo il Milan di Ancelotti, per non parlare del suo. Una squadra con così tanto talento, messo in campo tutto insieme, diventa grande quando i giocatori sono in grado di rinunciare a qualcosa di loro, i fuoriclasse sono in grado di rinunciare a qualcosa di loro, del loro talento, della loro possibilità di fare di più per mettersi al servizio della squadra. E a me viene in mente Seedorf, mi viene in mente Milan con Gullit, e mi viene in mente Mandzukic, e mi viene in mente Pjanic che fa il mediano di rottura. Allora, guardi, Allora, la differenza fra gli sport di squadra e quelli individuali è data dalla sinergia. La sinergia è quell'elemento che amplifica tutte le qualità che una persona ha. Perché vi sia la sinergia, ci deve essere un ordine precostituito e ci deve essere modestia, ci deve essere un obiettivo comune, l'orgoglio di appartenenza, l'etica del collettivo, l'etica del lavoro e quindi il correre, il sacrificarsi e lottare per i compagni diventa, e la generosità diventano una regola. La Juventus ha tutto questo, ma questi sono i principi fondamentali della filosofia degli sport di squadra. Quindi c'è tutto questo. Poi dopo che cosa c'è? Quando c'è questo sei già un protagonista. Se poi dopo questo viene interpretato da dei giocatori di grande qualità diventa qualcosa di straordinario. Questo Juventus sta facendo qualcosa di straordinario. Sì. Il gioco non sempre, per essere chiari, è stato brillante. Sì. Però è di una forza impressionante. Perché dico questo? Dunque doveva incontrare il Porto. Beh, il Porto non si è neanche visto. Allora si è detto: ma il Porto è una squadretta. Non è così. Il Porto non è una squadretta ed era la forza della Juventus. Poi ha dovuto incontrare una grande squadra come il Barcellona e si è detto: beh, il Barcellona non è in forma, ha perso diverse partite. Uh-huh. Poi quattro giorni dopo, una settimana dopo, il Barcellona incontra il Real Madrid a Madrid e fa una partita epocale. Pazzesca. Allora a qualcheduno verrà il dubbio che è questa forza brutale della Juventus, che è veramente un carro armato, una macchina, che annichilisse completamente l'avversario da renderli scialbi, quasi scarsi. Sì. Lascio l'ultima domanda a Pardo per Arrigo Sacchi. È capitato ieri con il Monaco. Io devo dire, l'ho anche scritto, per quanto mi sforzassi di pensare come il Monaco potesse passare la Juventus, ho detto può riuscirci solo in un modo: se la Juventus fa Arachiri, cioè se la Juventus se la Juventus decide di ammutinarsi, non vedevi altre possibilità. Lascio l'ultima domanda a Pierluigi. La domanda è, lasciando perdere le scaramanzie, insomma, sulla possibile finale, che tipo di evoluzione c'è? Nel senso che Real Madrid è da questo punto di vista una squadra che ha enormi qualità individuali, ma anche una sua compattezza, quindi insomma, sarebbe la sfida tra le due squadre migliori, anche se poi il Bayern sappiamo che uscirà. Se mi è consentito, Real Madrid è più vicino al mio modo di pensare calcio, perché cerca sempre di vincere attraverso il protagonismo, talmente tanto che col Barcellona in 10 contro 11 aveva pareggiato al 42esimo e continuava in 10 contro 11 ad attaccare, ma questo è il loro stile che poi è un grandissimo vantaggio e a volte potrebbe essere uno svantaggio. Faccio un esempio: quando l'Italia nell'82 incontrò il Brasile, al Brasile bastava il pareggio per passare il turno, e Falcao in una riunione di tutti i giocatori con l'allenatore disse: se noi stiamo indietro gli italiani sanno solo fare contropiede e difendersi, li mettiamo in difficoltà. E si alzarono Socrates e Zico, dissero: noi siamo il Brasile non può stare indietro. Il Real Madrid, nonostante la saggezza di Zidane, è il Real Madrid, non può stare indietro, e questa credo che sia una situazione ideale per la Juventus. Inoltre la Juventus ha una determinazione di chi non ha vinto quasi mai la Champions, gli altri ce l'hanno minore. Per questo credo che il Real Madrid dovrà compiere veramente un capolavoro, altrimenti la mia favorita, nonostante io devo dire mi avvicino di più col pensiero al Real Madrid e sono stato anche a lavorare e quindi sono sempre molto affezionato a quell'ambiente, devo dire che la mia favorita rimane la Juventus. Arrigo, grazie davvero come sempre. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. E mi raccomando, non contenete Pardo, perché è bello così. No, ma chi? No, anzi, lo fomentiamo, non è che lo non conteniamo, gli riforniamo palloni in continuazione, come manco Donadoni a Van Basten, mister. Però Pierluigi, credimi, smettetela di dare importanza ai moduli. I moduli Solo l'ultima cosa. Oh, finalmente, grazie Arrigo. Grazie. Oggi sono più, dopo che mi ha detto questo, oggi sono più felice. Allora, andiamo con il traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. Beh ragazzi, penso che mai come in questa occasione e dopo questa chiacchierata con Arrigo Sacchi valesse la pena, scusandoci, mandare in ritardo le informazioni sulla viabilità che peraltro interessano Pardo di ritorno dal Principato per, ma non arrivi in ritardo per Tiki Taka News, tranquillo, 19, hai tutto il tempo che vuoi. Un te sento, ti lascio tornare tanto. Abbiamo anche domani e anche dopodomani, no, domenica e tutti i giorni della nostra vita per parlare insieme. Ho pochi minuti, 4 in realtà, prima del GR, e poi parleremo del caso Totti, Monchi che lo ha praticamente dimissionato da giocatore. E poi parleremo della grande grana in front Galliani, eccetera. E poi c'è questa ultima ora, respinto il ricorso per Strootman, confermate le due giornate di squalifica, mi pare il minimo sindacale. Fortunato, buongiorno. A lei, dica. Grazie per l'occasione. Allora, due cose banali, mi sente? Sì, la sento. Ah, ok. Allora, io la prima cosa che ieri ho detto, al di là insomma del privilegio che abbiamo avuto di vederla a mia moglie, io mi sono detto, ma questo... No, non la sento più, i telefoni che non si sentono mi fanno ormai... Mi rendono la vita molto difficile. Andrea da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi senti invece? Io la sento, sì. Perfetto. Era dopo il signor Sacchi qualsiasi affermazione ha detto delle cose di un estremo interesse a Arrigo Sacchi, che poi è un personaggio che divide, che può piacere o non piacere, con il quale si può essere d'accordo oppure no, perché su certe cose pure io non sono d'accordissimo su Arrigo Sacchi, in particolare sulle critiche nei confronti di Allegri che aveva espresso a chiare lettere. Oggi ha avuto altre parole, altri pensieri, i suoi non cambiano, però insomma, se io continuo a considerare Sacchi uno che ha rivoluzionato il calcio e Allegri un allenatore top mondiale. Dica Andrea. Grande stratega, no, per questo mi devo ricredere sia su Max Allegri sia su Dani Alves, che inizio stagione ero veramente dubbioso. Io semplicemente ho chiamato per considerazione. È stato esaltato sulle pagine di giornali questo Monaco, e ieri veramente è stata una grandissima delusione. Ah, attenzione però, attenzione, dove è stata una grande delusione il Monaco e dove la Juventus è stata brava a disinnescarlo, perché io verso il 35esimo del primo tempo e dopo il primo gol ho rivisto quella Juventus a testuggine con Higuain e poi dietro Higuain Dybala e Mandzukic e poi la linea dei quattro, quella Juventus a testuggine che ha disinnescato il Barcellona e ieri ha disinnescato il Monaco. Ha ragione Arrigo Sacchi quando dice hanno eliminato il Porto era una squadretta, hanno eliminato il Barcellona, ma il Barcellona è a fine ciclo e poi va a fare quello che ha fatto al Bernabeu. Siamo sicuri che sia così o è la Juventus a rendere impotenti gli avversari? È questa la domanda. Massimo, buongiorno. Buongiorno Dica. A voi. Allora, niente, per quanto riguarda insomma quello che ha detto Sacchi, mi trovo molto d'accordo. L'ordine, le norme soprattutto sono imprescindibili per qualsivoglia società che insomma intende vincere ad altri livelli. Però ecco, nella fattispecie di Oporto, quando fu escluso Bonucci giustamente dalla società, in realtà l'input arrivò proprio da Allegri e fu recepito dalla società. È una cosa molto importante, questo è un passaggio secondo me nodale in quel momento, molto molto fondamentale. perché chiaro. Se non ci fosse stato l'input di Allegri probabilmente non sarebbe andata così. Beh, ma ecco. L'input da qualche parte arriva, poi il punto è che si deve essere tutti d'accordo su una decisione, ed è questo che rende grande una società. Ognuno fa il suo mestiere e deve farlo remando nella stessa direzione in cui remano gli altri. Allora ci fermiamo per il GR, poi torniamo con il caso Totti, con il casino in front eccetera, arriverà Belinazza, arriveranno altri ospiti, altre telefonate, ci vediamo anche sul video Facebook o la pagina di Radio 24. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom. È il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Da Terna parte un invito in area per Fonseca, che fa da torre per Totti. Sinistro in corsa e palla nel sacco. Molto bravo il giovane attaccante romano, schierato al posto di Baldo. Come ha sempre detto il mister, quando entro io la gente si esalta, mi acclama, è normale che essendo romano e romanista è un altro spirito, un altro voglia di far vedere quello che realmente riesco a fare, e poi non posso che fare del mio meglio e contraccambiare sul campo. Ce l'avete già, ripeto, Francesco ha il contratto da calciatore in scadenza il 30 giugno e un ulteriore contratto di 6 anni, quindi evidentemente non sarà il suo ultimo derby. Per il momento non lo vediamo in campo, ma sarà con noi per viverne molti altri. In quanto a Francesco, io llevo aquí hace, he llegado hace una semana, y todo lo que he sabido de él y todo lo que he escuchado es que ya hay una decisión tomada, un acuerdo cerrado desde hace tiempo, en el que este año él finaliza su etapa como jugador de la Roma y comenzará a trabajar como dirigente. Ese acuerdo es el que está. Yo quiero mirar para adelante. Yo quiero pensar, quiero pedir, estar lo más cerca posible en el futuro de Francesco. Quiero que esté aquí, pegado a mí, para poder aprender lo que es la Roma, porque Francesco es la Roma. Siamo partiti dall'inizio, proprio dall'inizio, dal primo gol di Totti, e siamo arrivati alla fine decretata dalle parole dell'ultimo arrivato, e cioè Monchi, ieri presentato in conferenza stampa. L'argomento si presta a almeno 500.000 di letture. Invito gli ascoltatori a venirci a trovare dentro gli studi sul sito di Radio 24 o su Facebook, perché siamo anche in diretta video. È in diretta telefonica invece Luca Valdiserri, penna notissima, illustrissima, del Corriere della Sera, che oggi titola: finisce qui la storia del fenomeno Totti, inizia quella del dirigente della Roma, ma sotto c'è: lo spagnolo l'ha studiata bene, ha preparato Francesco che vorrebbe giocare ancora. Ciao Luca. Eccomi, ciao, buongiorno. Capello è stato invece meno tenero, serviva il coraggio di dirlo, hanno fatto arrivare apposta uno dalla Spagna. Allora, i termini della questione quali sono? I termini della questione sono che è stato fatto un contratto a Totti in cui nero su bianco la società aveva messo: questa sarà l'ultima stagione, no? È già quello. Tweet del 7 giugno 2016. Giusto? È un segnale, sì, un segnale non richiesto, no? Nel senso, tu puoi fare un contratto di un anno a un giocatore, no? Sì. Ed è automatico che poi questo contratto andrà ridiscusso, perché se è per un anno, no? Capisci? E invece c'era si era sentito il bisogno di mettere espressamente ultima stagione. Sì. Vuol dire che la società aveva una volontà molto chiara, che è una volontà che nasce da lontano. Tieni conto che l'idea era di non farlo nemmeno, no, quel contratto, perché poco prima, pochi mesi prima, presidente Pallotta, con la schiettezza che hanno spesso gli americani, e ancora di più quando si parla molto lontano dal posto dove succedono le cose, aveva detto: Totti è stato un campione, ma le gambe non possono più fare quello che dice, sì, loro il cervello. Sì. E posto che io trovo, ma l'ho ripetuto così tante volte che avrò stufato certamente gli ascoltatori, che io trovo offensivo il trattamento che Spalletti ha riservato a Totti in questa stagione dal punto di vista del campo, dell'impiego, dell'utilizzo, della correttezza, così come trovavo offensivo il trattamento riservato a Del Piero, ti chiedo, primo, a me suona strano che l'annuncio del ritiro di un pezzo di storia del nostro calcio, ma della Roma soprattutto, arrivi non dal diretto interessato, ma dall'ultimo arrivato. E ti chiedo anche, a questo punto tu trovi qualche analogia tra questa situazione e quella che riguardò Del Piero? Allora, penso che noi sbagliamo definendo come l'annuncio del ritiro di Totti quello che ha fatto ieri Monchi. Come no? Monchi non ha detto Totti si ritira. Monchi ha detto Totti non può più fare il calciatore nella Roma. Però potrebbe farlo altrove. Come ha fatto Del Piero. Nel senso, non è che, anche perché non può certo dire Monchi Totti non gioca più, quello lo può dire solo Totti. Esatto. Però Monchi può dire: caro Francesco, qua alla Roma non sarai più calciatore, non lo potrai più fare. Se vuoi, insieme a me, ed è importante il tono con cui lo dice Monchi, la faccia, poi sai, essere sui posti, l'unico vero ancora privilegio del mestiere dei giornalisti, che è un mestiere ormai vilipeso, sì, è quello di poter essere dei posti, di essere lì, di guardare la faccia, perché un conto è avere una registrazione, conto è vedere la faccia, certo, di chi parla. E allora, certo, a me ha dato l'impressione che Monchi fosse molto sincero in questo, che dicesse a Totti: guarda che io, se vuoi imparare un mestiere nuovo, io sono bravo in questo mestiere, ti do volentieri una mano, come tu avresti potuto darmi mille mani per diventare un giocatore più bravo, perché Monchi è stato portiere, ma comunque è stato calciatore. Senti Luca, allora, invece cagliamoci nei cunicoli, nei meandri del nostro mestiere, che sono un territorio molto viscido e non molto accogliente. si dice anche che Totti fosse in attesa di capire chi allenava l'anno prossimo la Roma, augurandosi che non fosse Spalletti, proprio perché voleva prolungare il contratto. Questa è una voce che si dice lì non voglio dire nelle fogne, però nei meandri della... Non c'è dubbio che il rapporto tra Totti e Spalletti non ha funzionato, ma non bisognava essere degli abili lettori di situazioni per capirlo fin dall'inizio, no? Uh-huh. Perché comunque c'era stata una rottura ai tempi in cui Spalletti aveva dato le dimissioni. Spalletti si era sentito in qualche modo tradito da chi c'era, sì, all'epoca, anche dai giocatori, sì. E Spalletti è un uomo molto rancoroso, ognuno poi ha il suo carattere. Il carattere di Spalletti è un carattere che lo ha anche frenato certe volte, secondo me, nella sua carriera, per cui era assolutamente chiaro che ci potessero essere dei problemi. Però che Totti aspettasse di sapere chi è l'allenatore non mi sembra corretto dirlo, non credo che sia così. Che Totti si aspettasse una gestione diversa di quella che comunque era al 99% la sua ultima stagione, questo sicuramente sì. Ecco, e adesso cosa ti aspetti tu da Totti? Mi aspetto che faccia il dirigente della Roma insieme a Monchi, sì? Perché è una grande opportunità. Ti ripeto, sarebbe, è una bella, ma è una sarebbe bella fantastico, nave scuola, no? Sarebbe fantastico, però io non so se uno che ha l'orgoglio che ha Totti accetterà il modo in cui sono state gestite le cose. Cioè, ma Totti ha un amore per la Roma che tu non ti puoi neanche immaginare. Ma poi tu perché immaginati, nessuna squadra al mondo ha avuto nella sua storia un giocatore così totalizzante come Totti. Ma e assolutamente può essere anche un limite, eh? È stato un limite in molte occasioni, però tu immaginati anche, dici responsabile, capo del settore giovanile, immaginati Totti che accoglie i ragazzini, ma è la prima immagine che mi viene in mente. Immaginati un Totti che comunque devi imparare questo mestiere perché non lo ha mai fatto, così come non lo ha mai fatto Del Piero, così non lo ha, come non, ad esempio si parla di bandiera del Milan e si fanno molti nomi, ma l'unico che ha fatto questo mestiere, che sta facendo questo mestiere, è Albertini. Gli altri non lo hanno mai fatto. Non è che si impara questo mestiere di dirigente dall'oggi al domani. Ma infatti per questo ti dico che è una grande occasione anche per Totti, perché lui può lavorare. Totti chiede di poter fare il dirigente e non la semplice statuina da mettere, no, nel presepe. Sì, e questo è perfettamente legittimo. Se la Roma, io penso che un uomo come Totti alla Roma può solo dare, e allora credo che vada tenuto e gli vada cercata in tutti i modi una strada per farlo diventare ancora, anche se non gioca più, un valore aggiunto nella Roma. Penso che la proposta di Bonci sia una proposta molto valida. Poi, se tu mi dici, io prima ho sentito che citavi un titolo che ha fatto un giornale, cioè l'ultimo arrivato, ecco, questo potrebbe essere un fatto positivo, non negativo, perché è una pagina che si gira. Sì, sì. Monci può ripartire la Roma. Sì, sono d'accordissimo. È meglio che questa offerta a Totti sia arrivata da Monci, nuovo, fresco, tabula rasa, piuttosto che da un altro dirigente con cui Totti ha avuto a che fare in questi mesi, in questi ultimi due anni, diciamo, e con il quale, lo dimostrano i fatti, non si è arrivati alla creazione di un rapporto forte. Sì, non ho dubbi. E allora, se Spalletti dicesse, Francesco, vieni in panchina con me, ti insegno io. Sì. Io sono d'accordissimo con te, ma mi continua a suonarmi strano, nonostante le tue parole e insomma la profonda stima che ho per te, per come svolgi la tua professione, per come conosci quell'ambiente, è che un annuncio di questo tipo non lo faccia il numero 10. Cioè, ragazzi, l'anno prossimo io faccio dirigente, con il calcio chiudo qui, perché non deve, cioè mi suona strano da morire che arrivi Monci a dire farà il dirigente insieme a me. Hai ma capito? Anch'io questo. Sono convinto che si poteva trovare una strada migliore, ma in questi ultimi mesi ho visto percorrere strade molto peggiori di quella che ieri ha provato a imboccare Monci. E allora, essendo io ormai un povero vecchio, ti dico che anche se non è la migliore delle ipotesi, per come la vedo io è la seconda migliore. E allora mi accontento, perché ne ho viste anche di brutte cose. E allora dico, va bene, si poteva far meglio. Forse Francesco meritava, sì, di essere lui a dare l'ultimo annuncio, però quello di ieri non mi trova favorevole. Ma anche a me trova favorevole. Non sto dicendo che non lo sia. Soffro fisicamente nel vedere Totti messo in campo negli ultimi tre minuti una partita che non conta nulla. Soffro fisicamente. Questo sono profondamente offeso calcisticamente nei confronti di Spalletti, ma tanto siamo tutti degli sfigati, Luca, cosa ci vuoi fare? Senti, torniamo a parlarne, io credo presto, perché credo che le parole di Totti non si faranno attendere. Intanto ti saluto e ti ringrazio. D'accordo, di cuore. A presto. Grazie a Luca Valdiserri, Raffaele, provincia di Lucca. Salve, buonasera, scusi se disturbo. Devo dire una cosa, prima ma non disturba mai. Accennato prima un difetto di Allegri. Sì. Io penso di averne uno. L'anno scorso, quando la Juventus era quart'ultima, quint'ultima in classifica, in una rassegna stampa Allegri si presentò davanti ai giornalisti e disse: quest'anno, signori miei, sappia che io ieri sera ho esultato per la vittoria della Juve, perché sono sportivo, non sono un tifoso. Sì. Dice: quest'anno sarà un anno di transizione, siccome abbiamo vinto e rivinto tutti questi anni, quest'anno è un anno che va così. Siccome la Juventus è una società molto molto seria, iniziando dal primo all'ultimo, ha preso, diciamo, per un orecchio Allegri, che è un mio compaesano, che andiamo in gommone insieme alle Melori a Livorno. Sì. L'ha preso per un orecchio e ha detto: ma mi dici un po', Allegri, ma quest'anno cosa ti viene in mente di dire che è un anno di transizione della Juventus? La invito, cosa che non esiste per noi. Raffaele, la invito a riascoltare, magari mentre in viaggio verso la Meloria in gommone, quanto ha detto prima Arrigo Sacchi. La Juventus è una società in cui contano le norme, e queste norme, di queste norme è depositaria la società intera, non sono depositari soltanto il presidente Marotta, Nedved, Paratici, Allegri, è depositaria la società, quindi indubbiamente sarà successo quello che lei ha detto. Io non posso dimenticare come nel giorno dopo la sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo, quindi nel punto più basso del cammino della Juventus, quando Allegri disse quelle cose, a parlare, ad andare davanti alle telecamere, furono i Mamma Santissima dello spogliatoio bianconero, che furono Buffon, come sapete, Bonucci, Chiellini ed Evra. E quindi io non ho dubbi sul fatto che anche Allegri qualche volta sia stato preso dalle orecchie dalla società, proprio in ossequio a quelle norme che la rendono grande. Arrigo Sacchi, Dixit. Fernando, provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi fa piacere intervenire in questo momento, perché avete parlato di Totti, e quindi, pur essendo non un tifoso della Roma, non vederlo più giocare sicuramente sarà una perdita un po' per tutto il calcio italiano. Sì, e non Ferdinando, però meglio non vederlo più giocare che vederlo giocare in questa maniera. Sono d'accordo, non mi faccio ripetere le cose 100 volte. Sì, sono perfettamente d'accordo sul suo modo di vedere la situazione ultima e il trattamento che è stato riservato. Io però chiamavo fondamentalmente, mi permetto di ritornare sull'episodio del derby Roma-Lazio, perché sono rimasto particolarmente colpito un mesetto fa dalla partecipazione di Liguori ad una vostra trasmissione. Sì, dove ricordo. Era particolarmente accanito, mi pare, dopo Juve-Milan, sui vari complotti presunti. No, credo fosse Juventus-Inter, ma comunque immagine viste, immagine mandate, non mandate, situazioni che poco avevano a che vedere poi con quella che probabilmente è la realtà e che non è quella che descriveva Liguori quel giorno. Ecco, io avevo da quel giorno il desiderio di chiamarvi, sì, perché mi farebbe piacere, dopo il derby, e non sono neanche laziale, sentire cosa e che interpretazione potesse dare a quello che sono stati gli errori arbitrali, che possono tranquillamente capitare. Da sportivo penso che ne capiteranno ancora, magari anche peggiori, sì, però mi sarebbe piaciuto sentirlo se vuole lo chiamiamo, ma si danno e si prendono. In questo caso la Roma le ha avute, ha avuto gli episodi favorevoli, tanto che faceva abbastanza sorridere la conferenza stampa di Spalletti quando diceva episodi sfavorevoli, sì, ma ne ha avuti di estremamente favorevoli, che costano anche, ripeto, respinto il ricorso giustamente per la simulazione di Strootman, che si becca due giornate come da prassi. Dunque si danno e si prendono. Poi, se si vuol fare della dietrologia a tutti i costi, vabbè, possiamo farla senza grande piacere, senza grande gusto, senza grande godimento. L'impressione che faccio una comunicazione di servizio: il tempo che ci è rimasto è poco e sono 3 minuti. L'argomento è grosso, cioè l'inchiesta Infront. Credo che affronteremo questo capitolo domani. Maria da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. E senta, marito, sono una vecchia signora, ho 88 anni e sono tifosa della Juventus. E però io la ringrazio molto di esserci venuta a trovare telefonicamente. La ringrazio, ma io oggi non voglio parlare della Juventus e non voglio parlare di calcio. Ah, io voglio ricordare il grande Torino. Oh, ma che bello. Io avevo 20 anni ed ero a Torino proprio quel giorno di Superga e non dimenticherò mai nella mia vita quella squadra. Ancora oggi io faccio molta difficoltà a tifare contro il Torino, lo faccio quasi solo nei derby e vorrei tanto, tanto che il Torino tornasse grande come era per vedere ancora quei meravigliosi derby dove tante volte siamo usciti sconfitti. Ma io credo che nel calcio una squadra come il Toro sia una cosa molto positiva, come le ripeto, sono vecchia e quindi forse c'è una punta così di nostalgia. No, non c'è una punta di nostalgia, c'è una punta di romanticismo e di civiltà mostruosa che ci addolcisce un po' certi discorsi che abbiamo fatto prima, quindi io non posso far altro, signora Maria, che ringraziarla per il suo intervento e togliermi il cappello. Giusi da Roma. Salve, intanto mi tolgo il cappello anch'io perché è stato un intervento molto toccante, insomma, di questa signora. Volevo dire una cosa, su prima si stava parlando di quanto Spalletti forse non abbia, come dire, utilizzato bene, trattato bene Totti in questa stagione. Però mi chiedo quanto Totti però pure ha permesso questo, se invece poteva scegliere di rinunciare, come dire, a giocare e puntare, diciamo, sulla dirigenza, scegliendolo lui, insomma, come giocatore, quanto ha accettato poi questa situazione? Giusy, io non ho una risposta, anzi è la stessa domanda che mi pongo anch'io, cioè io mai e poi mai avrei accettato di essere, lasciatemelo dire ancora, calcisticamente offeso in alcune situazioni come lo è stato Totti, che è stato grandissimo nel non alzare mai la voce, nel non avere un comportamento fuori luogo, però io faccio fatica a capire come un giocatore di questo tipo, il giocatore che è stato, accetti un trattamento di questo tipo. Grande professionista, possiamo metterla sulla professionalità del giocatore, che non è una cosa da poco, però dal punto di vista sportivo è un punto che pure non mi torna, insieme a quello di qui sopra, e cioè in una situazione di questo tipo forse le cose andavano gestite in un altro modo, non doveva essere l'ultimo arrivato a dire beh, Totti qui non giocherà più. Ragazzi, ci fermiamo, ma sono tutti discorsi che riprenderemo domani, quando saremo presenti alle 14 sul pezzo. Io, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.